Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi che ci state ascoltando. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Ma prima voglio ringraziare Giorgio Mattei che è in regia alla parte tecnica e come sempre in redazione Laura Vanossi. Partiamo. Tic e balbuzie, ecco come affrontarli. Come stanno e come vivono i nostri figli? Pneumologia, giornata mondiale BPCO. Tic e balbuzie, due disturbi diversi, ma che a ben vedere hanno alcuni tratti comuni. Entrambi sono involontari, spesso insorgono in età evolutiva, aumentano con lo stress e creano imbarazzo in chi ne soffre. Oggi cercheremo di fare chiarezza, lo faremo con tanti ospiti che ci raggiungeranno nel corso della nostra trasmissione. Se il tema è di vostro interesse e volete intervenire, il nostro numero verde è attivo 800 24 00 24, e come sempre i messaggi potete inviarli al 349 238 6666. Vi presento il nostro primo ospite che è in linea con noi, il professor Fabrizio Stocchi, neurologo al San Raffaele di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, iniziamo a fare chiarezza. Chi dice tic pensa a quei movimenti improvvisi e rapidi che di solito, interessano gli occhi, la bocca e il viso. In realtà la parola tic nasconde un universo molto variegato. Proviamo a definirlo, professore. Beh sì, perché se noi consideriamo che circa il 30% dei bambini in età scolare soffre di un tic, è anche vero che poi c'è un 5% della popolazione adulta che continua a soffrire di tic. Naturalmente c'è anche una varietà in termini di gravità dei tic. Ci sono dei tic molto leggeri come quelli che ha nominato lei, sbattere gli occhi oppure muovere appena mano, braccio. Ma ci sono anche dei pazienti che soffrono di tic complessi molto più gravi, che non solo prendono altri segmenti corporei, testa, tronco, spalle, eccetera, ma che coinvolgono anche la vocalizzazione, cioè questi sono pazienti che per esempio non riescono a trattenere il fatto di dire parole ad alta voce, di dire urletti, abbaiare, dire parolacce. Quindi è sicuramente uno span estremamente ampio. Si definisce anche la patologia quando i tic sono particolarmente complessi e c'è la vocalizzazione, la patologia viene definita malattia di Tourette oppure tic multipli complessi. Quindi sicuramente è, come ha detto lei, un universo forse poco conosciuto ma estremamente presente tra la popolazione. Quindi non solo motori ma anche tic vocali. Naturalmente sapete, avete avuto modo e le ricerche hanno lavorato tanto in questi anni, avete capito qual è la causa di questi tic? Ma sicuramente sappiamo alcune cose, sappiamo per esempio dov'è la disfunzione. Noi nel cervello umano esiste un computer che è in grado di controllare tutti i movimenti cosiddetti automatici, che sono il 90% dei movimenti che noi facciamo tutti i giorni. Questa grossa memoria di programmi motori viene controllata dalla corteccia. Se c'è una non completa maturazione della via di controllo fra appunto la corteccia e questo computer che si chiama gangli della base, è possibile che alcuni programmi motori emergano, vengano fuori senza controllo. Inoltre c'è sicuramente una compartecipazione fra tic, componente d'ansia importante dal punto di vista però di ansia somatizzata organica, sì, e anche sindrome ossessiva compulsiva. Quindi c'è sicuramente una via comune, dove però anche oggi sappiamo perfettamente che questo sistema di cui parlavo, cioè questo computer, sappiamo oggi che non controlla soltanto esclusivamente il sistema motorio, ma ha dei contatti e dei ruoli molto importanti anche per il controllo di alcune sensazioni, come per esempio il controllo dell'ansia, il controllo della paura, il controllo del panico. Quindi sono due variabili che si intrecciano. Si intrecciano, esatto. Quindi diciamo che il fatto della via di controllo tra corteccia e gangli della base nella fase maturativa ci spiega perché questi tic sono molto più frequenti nel bambino, quando questa via si va a maturare, quindi certo. Questo controllo diventa sempre più preciso. Se nell'adulto sì. Poi questo non avviene, permane la componente tic. E infatti ci ha detto un 5%, vero? Professore, andiamo alla balbuzie. Le caratteristiche sono ben riassunte nella definizione dell'OMS. Infatti c'è scritto: la balbuzie è un disordine nel ritmo della parola nel quale il paziente sa con precisione ciò che vorrebbe dire, ma allo stesso tempo non è in grado di dirlo a causa di arresti, ripetizioni e o prolungamenti di un suono che hanno carattere di involontarietà. Professore, lei ci ha detto che i tic hanno un'origine organica e che può in fondo essere slatentizzata anche da stress emotivi, le due variabili abbiamo detto si intrecciano. Questo è valido anche per la balbuzie o dobbiamo considerare il disturbo solo come una causa prettamente psicologica? Ci sono tanti studi a riguardo, sicuramente le tecniche oggi a disposizione hanno dato un contributo, che cosa ne sapete? Ma ci sono degli studi molto recenti e molto affidabili con la neuroimmagine funzionale, sia la PET che la risonanza magnetica funzionale, che dimostrano che effettivamente nelle persone che soffrono di balbuzie c'è un'alterazione di una zona del cervello che è controlaterale all'emisfero dominante. Ovviamente non tutti sanno che il nostro linguaggio viene controllato dal cosiddetto emisfero dominante, che è quello opposto al nostro lato dominante, che in genere è la destra, sì. Nei destrimani è la destra. Ecco, dall'altro lato del cervello, ma più o meno nella stessa posizione, esistono delle altre aree che sono delle aree che controllano appunto l'associazione fra i diversi programmi motori. E qui sembrerebbe esserci una sofferenza nei pazienti balbuzienti, sembrerebbe esserci un'alterazione. Comunque va fatto un distinguo importante, cioè c'è una profonda differenza dal punto di vista fisiopatologico tra il tic e la balbuzie, cioè sì. La balbuzie non può essere assolutamente considerata un tic, anche per una cosa molto semplice: il tic è una produzione di un qualcosa che è indesiderata, cioè, e quindi è un qualcosa in più, mentre quindi possiamo considerarlo un sintomo aggiuntivo, un sintomo positivo. La balbuzia in realtà è un sintomo negativo, cioè c'è qualcosa in meno, cioè l'affluenza della parola non è più difficoltosa. Allora restate con noi. Se vostro figlio, abbiamo detto appunto che questi disturbi sono più frequenti in età evolutiva, ha dei tic, se vi pare che si sforzi, faccia fatica a dire alcune parole o a iniziare una frase, chiederemo ai nostri esperti di dare una risposta ai vostri dubbi e, se possibile, li inviteremo anche a suggerirci il modo migliore per affrontare questi disturbi. Inizieremo quindi ad occuparci dei tic e delle balbuzie nei bambini, ma andremo oltre. A volte, come ci ha anticipato il professor Stocchi, i tic e anche la balbuzie non sono transitori, rimangono. Restate con noi, chiamateci, il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 0024, messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Passano molto tempo al computer o con i videogiochi, spesso dispongono di un telefonino già 6 anni, ma hanno molte paure. Questi sono alcuni dei dati emersi dal 9° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza di Telefono Azzurro ed Eurispes. È stato presentato ieri a Roma, ma per capirne di più, o meglio per capire di più dei nostri giovani e degli adolescenti di oggi, è in linea con noi il professor Ernesto Caffo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Presidente di Telefono Azzurro e ordinario di neuropsichiatria all'Università di Modena e Reggio Emilia. Professore, guardandoli e sentendoli parlare, viene da dire quanto sono svegli. In alcuni casi sembrano addirittura più grandi della loro età, ma i nostri figli sono molto fragili. In qualche modo crescono più velocemente che non nel passato, però trovano degli adulti molte volte non preparati a cogliere questa opportunità di conoscenze che il bambino acquisisce, spesso lasciando il bambino da solo di fronte a queste nuove conoscenze, ma che queste nuove esperienze, e talvolta queste situazioni possono entrare anche a rischio, ma soprattutto non si potenzia fino in fondo la capacità del bambino di conoscere e di sviluppare nuove opportunità di crescita in un mondo che sempre più diventa virtuale oltre che reale, ed è questo un aspetto che dobbiamo tenere presente. Professor Caffo, c'è un aspetto che va considerato: i genitori di oggi spesso tendono a delegare, quindi a fare un passo indietro. Sì, la delega esserebbe più anticipata, in qualche modo si resta genitori per pochi anni, poi si pensa che in qualche modo altre realtà possono assumere questa funzione di guida del bambino, la scuola, l'extrascuola e tutta una serie di iniziative che spesso vengono proposte alla famiglia come soluzione alle difficoltà che ha il genitore nell'affrontare come tempi di vita, ma anche come tempi mentali, l'educazione di un bambino. Questo però crea una difficoltà di rapporto con un bambino che soprattutto quando diventa adolescente sente l'adulto genitore un estraneo, talvolta in un sicuramente una persona non adeguata, non competente, ed è quello che i bambini nella ricerca che abbiamo presentato dimostrano. I bambini sentono il papà, ma soprattutto la mamma, non adeguati a seguirli nel percorso di conoscenza delle nuove tecnologie, dei nuovi eventi sociali. Questo sicuramente dà senso di bambini che spesso in qualche modo richiedono l'aiuto dell'adulto, soprattutto del genitore, ma che lo trovano molte volte disinteressato o non competente. Professor Caffo, domani 20 novembre è la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia, ci saranno tante iniziative che proseguiranno soprattutto nel fine settimana, è un'occasione anche per condividere queste iniziative insieme ai propri figli. Tornano anche le candele di Telefono Azzurro, 7.000 volontari saranno presenti in 1.500 piazze italiane con l'offerta di candele per la tradizionale campagna nazionale Accendi l'Azzurro. Professore, un commento a questa bella iniziativa. Ma io credo che occorre impegnarsi per i bambini sempre, e questa occasione che avviene appunto attorno alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia è un modo di ricordare un dato, che troppi bambini nel mondo, anche nel nostro paese, sono vittime di sfruttamenti, di violenze, di situazioni nelle quali i bambini dovrebbero in qualche modo essere esclusi, e d'altra parte dobbiamo anche far sì che tutta la comunità se ne faccia carico di questo impegno, quindi dare un contributo ad associazioni come Telefono Azzurro, come UNICEF, come Save the Children è importante, ed è importante anche cercare con gesti concreti di poter partecipare a un'azione di impegno per le future generazioni. Professor Caffo, lei ha citato l'UNICEF che parteciperà alla giornata con la PIMP, un nuovo prodotto editoriale di comunicazione dal titolo In viaggio con la PIMP, la scoperta dei diritti dei bambini e dei ragazzi, che è un modo semplice e diretto per comunicare i principi base della Convenzione sui diritti e sull'infanzia. Ma sicuramente è importante che i bambini conoscono la loro convenzione. Professore, quindi l'invito per tutti i nostri ascoltatori è di approfittare di questa occasione. Vi rimando al sito di Telefono Azzurro e al sito dell'UNICEF. Grazie professor Caffo per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto. Bene, grazie a voi. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme, oggi puntata è dedicata a due disturbi molto frequenti, specie nella tenera età o età evolutiva, come la chiamano gli esperti, TIC e la balbuzie. Abbiamo evidenziato i tratti comuni di questi disturbi, che sono in realtà, come ha precisato il professor Stocchi, diversi. Uno da cui partiamo è appunto l'età di esordio. Sono infatti frequenti nei bambini e spesso si risolvono nel giro di poco tempo. Ne parliamo oggi nel corso della nostra trasmissione, vi anticipavo, con diversi esperti. In linea con noi ci ha raggiunto la dottoressa Simona Bernardini, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Dottoressa, noi approfitteremo di lei per dare dei consigli ai nostri genitori per tutto quello che riguarda il trattamento, come si approccia alla balbuzie nei bambini e anche in chi bambino non è più. Molto volentieri. In linea con noi abbiamo anche la dottoressa Lucia Angelini. Benvenuta dottoressa. Buongiorno. Primario di neuropsichiatria infantile, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche al BESTA di Milano. Il professor Stocchi rimane con noi tutta l'ora. Professor Stocchi, lei è il nostro cavaliere. Si Io trova circondato dalle donne. Dottoressa Angelini, con lei vorrei fare una precisazione sui TIC dei bambini. Secondo i dati, il 25-30% dei bambini in età scolare si confronta con questi movimenti rapidi e involontari. L'esperienza però ci dice che spesso, come sono arrivati, se ne vanno, il che ci solleva. Ma se invece così non fosse, mi scuso per la domanda, immagino che queste domande se le sentirà porre di frequente, ma ho bisogno di un suo parere. È vero quello che lei dice, spesso nella maggior parte dei casi vengono e se ne vanno, e questi si chiamano tic transitori del bambino proprio nell'età scolare. Ci sì. sono quelli che però non se ne vanno o sono un po' più difficili da trattare, richiedono un approccio un pochino più approfondito e specialistico. Sono quelli che invece che essere motori semplici come in genere quelli transitori, piccole scosse del capo come buttarsi indietro la frangetta, piccoli sollevamenti delle spalle, strizzamento degli occhi, questi si chiamano tic motori semplici. Sì. Possono invece essere più complessi, addirittura arrivare ad essere gesti complicati o quasi rituali, saltellare, volare, oppure addirittura emettere dei suoni compulsivamente. Questi si chiamano motori complessi o vocali, certo. o fonici, e richiedono un inquadramento più preciso, perché sono un po' più resistenti o un po' più complessi, non sicuramente transitori. Dottoressa Angelini, se il nostro bambino, come ad esempio ci scrive un'ascoltatrice, ci scrive: la mia bambina di 9 anni da un paio di mesi arriccia ripetutamente il naso, succede soprattutto dal pomeriggio in poi, sembra un coniglietto, che fare? A chi rivolgersi? Ecco, questo è un tipico tic motorio semplice, un sì. aiuto può essere. A chi rivolgersi è sempre il neuropsichiatra infantile, perché è la sua specifica competenza. Magari per semplificare il problema o per problematizzarlo quando serve. Questo caso del coniglietto è molto semplice, è un tic motorio semplice, verosimilmente, quasi certamente transitorio, ma magari questa mamma, parlando con uno specialista, potrebbe trovare delle strategie non solo di buon senso per aiutare la sua bambina a risolverlo. Spesso l'angolo dei tic o un posto dove poter fare il coniglietto in libertà senza che nessun altro veda potrebbe essere un trucco. Questo è un trucco che da suggerire anche agli ascoltatori. Sì. È importante, soprattutto c'è anche un altro messaggio che voi specialisti date, quindi per i genitori: non cercare di dire al bambino non fare così, controllati, no. Ecco, no, questo è da evitare, vero dottoressa? Per definizione, perché un movimento involontario non può essere controllato dalla volontà. Dottoressa Angelini, io la ringrazio, è stata molto rassicurante e nello stesso tempo ci ha indicato un percorso. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Prego, grazie a lei. Professor Stocchi, gli stessi consigli che la dottoressa Angelini ha dato per i bambini possono valere per gli adulti? Ma diciamo che almeno quelli di buon senso, insomma. Sì, beh, diciamo che ci sono delle affinità. Purtroppo nella nostra esperienza con gli adulti dobbiamo verificare che non sempre la gravità del tic da bambino poi corrisponde alla probabilità o meno che questo tic rimanga poi nell'adulto. Cioè, in sì. pratica non è detto che un bambino che abbia un tic piccolo e semplicissimo sicuramente abbia la remissione, così come non è vero che i bambini che hanno anche tic molto più gravi e molto più complessi non avranno questa remissione. Ecco, quindi questo è imprevedibile. È imprevedibile. Dalla gravità del tic non si può decidere se questo bambino avrà o non avrà la remissione, che tra l'altro, ripeto, avviene, come ha detto anche la dottoressa, nel 90% dei casi del bambino. E allora quindi, io direi, sì, quindi mi scusi. No, dicevo, quindi c'è una fase di remissione molto importante. Ecco, questo poi va sottolineato. Rimane il problema nell'adulto. E noi ne parleremo del tic nell'adulto nel corso della trasmissione. Io direi però di restare nell'età evolutiva per parlare dell'altro disturbo che oggi stiamo trattando, la balbuzie. Dottoressa Bernardini, ho bisogno di lei per entrare un po' nel cuore del problema, perché i prolungamenti, le ripetizioni, la fatica che fa il bambino balbuziente sono molto diverse da quelle del parlato del bambino che balbuziente non è. Ci aiuta a capire un po' quante, come, se è possibile? Io le chiederei proprio di farci un po' degli esempi e poi diamo subito la linea ai nostri ascoltatori. Sì, molto volentieri. Allora, giustamente come diceva lei, vi sono delle differenze sia quantitative sia qualitative sì. nei tipi di disfluenze, che le disfluenze, ricordiamo, sono proprio delle interruzioni nell'occhio della persona che sta parlando. Le differenze sono quantità, quindi numero delle disfluenze prodotte, e poi la tipologia. Per semplificare, fare degli esempi ai nostri ascoltatori, potremmo sì. dire ad esempio che vi sono i sintomi primari, le cosiddette disfluenze, quali nei bambini piccoli sono prevalentemente le ripetizioni di parole, le ripetizioni di parti di parole o dei prolungamenti. Allora, le differenze principali sono nel numero, quindi i bambini che balbettano hanno un numero elevato, superiore di disfluenze rispetto a quelli che non balbettano. Così come i prolungamenti, un prolungamento di un suono che può essere crane, ad esempio, se dura oltre 500 millisecondi viene definito atipico, cioè le persone, i bambini che non balbettano hanno un prolungamento inferiore, di una certo. durata inferiore. Così come il numero, se noi facciamo ca ca ca ca cane, abbiamo un numero elevato di ripetizioni di sillaba nella prima parola, mentre i bambini che non balbettano lo ripetono fino a una singola unità, quindi ca cane, ad esempio. Quindi tante sono le variabili da tenere in considerazione. Assolutamente sì. Dottoressa Bernardini, abbiamo Enzo da Firenze. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi fatto intervenire. Volevo fare una domanda. Io ho un bambino che a febbraio prossimo compirà 3 anni. Sì. E abbiamo notato che da un mese a questa parte, io e mia moglie, che proprio nel momento in cui inizia una frase, soprattutto nell'iniziare la frase, comincia a balbettare. Mm. Cioè non riesce subito a partire con la parola che lui vorrebbe dire. Ed è un bambino parecchio vivace, un bambino parecchio emotivo, ecco, agitato. Sì. E mia moglie dice di non preoccuparsi, invece lei è un po' preoccupato. Enzo, ma noi le mettiamo a disposizione la dottoressa Bernardini. Dottoressa, stiamo per dare la linea ai mercati, ma penso che possa dare una risposta a Enzo. Sì, cercherò di essere il più veloce possibile. Allora Enzo, buongiorno. Innanzitutto teniamo presente che se le disfluenze, in questo caso i blocchi, quindi la difficoltà a iniziare un suono, inizio parola, inizio frase, persiste da un tempo superiore a 2 mesi e vi sono dei fattori quali ad esempio ereditarietà, quindi se qualcuno in famiglia ha avuto lo stesso disturbo e poi il fatto che sia un maschio è un fattore di rischio maggiore rispetto all'essere una femmina, noi possiamo dire che è assolutamente fondamentale fare una valutazione precoce, perché prima si interviene maggiori sono, qualora fosse necessario, le prospettive di avere un risultato migliore nell'ambito della terapia. Quindi, chi può fare questa valutazione? Quindi se il disturbo persiste oltre i 2 mesi, meglio farsi esatto. dare un'occhiata. Diciamo da chi? Da logopediste specializzate o da persone, psicologi specializzati però in questo disturbo. Solo una cosa che è sì. importante sapere per il nostro ascoltatore, che dal momento in cui insorge, che in media è intorno ai 33 mesi, teniamo presente che 4 bambini su 5 hanno circa una remissione nel 75% dei casi spontanea. Se persiste però per oltre 6 mesi dal momento in cui inizia a balbettare, è assolutamente necessario fare una valutazione e capire i fattori di rischio per eventualmente intervenire. Quindi allora, valutare e intervenire. Valutare, ecco, ed essere subito pronti con un colloquio con uno specialista. Non temporeggiamo. Siamo di nuovo insieme, oggi parliamo di tic e balbuzie. Il numero verde a vostra disposizione 824 0024 e i messaggi al 349 238 6666. Avrete modo così di contattare, mettervi in esporre i vostri dubbi e le vostre perplessità, le vostre richieste di aiuto al professor Fabrizio Stocchi, neurologo al San Raffaele di Roma, e alla dottoressa Simona Bernardini. Oggi è una giornata importante, è la giornata mondiale della BPCO. È una giornata che fa un po', richiama la nostra attenzione su questa malattia cronica ostruttiva, una malattia respiratoria. Pensate che in Italia ne soffrono nel mondo 600 milioni di persone, 2 milioni e mezzo in Italia sono soprattutto pazienti che hanno superato i 60 anni d'età. Bene, i sintomi sono fiato corto e difficoltà respiratorie. In pratica non si riesce più a svolgere con facilità le attività quotidiane. Questi sintomi però spesso vengono trascurati, ma per saperne di più abbiamo in linea il professor Lorenzo Corbetta, che è pneumologo all'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Professore, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Facciamo rapidamente il punto della situazione. Fiato corto, difficoltà a respirare, ma si tende a fare finta di niente. Sì, aggiungerei anche la tosse cronica, quella che viene definita come la tosse del fumatore. Sì. In realtà può nascondere una malattia che è molto insidiosa e anche può diventare anche molto grave, che è questa broncopneumopatia cronica ostruttiva, che, insomma, per far capire bene di cosa si parla, comprende anche l'enfisema polmonare. Professore, bisogna arrivare presto alla diagnosi, quindi non aspettare, perché individuando il problema ci sono un ventaglio di terapie molto efficaci che ci permettono di tenerlo sotto controllo. Esatto. Questo è un po' il messaggio di questa giornata, che di oggi, no? Sì, questo è il messaggio internazionale, no? Noi diciamo sì, siete senza respiro però non senza aiuto, e a livello mondiale stiamo puntando molto su una diagnosi precoce attraverso questo esame molto semplice e non invasivo che è la spirometria, che è un esame molto, molto facile anche da eseguire, perché si è visto che prima si fa la diagnosi e più efficaci sono gli interventi. E gli interventi stanno dimostrando, soprattutto negli ultimi 2 anni ci si è molto impegnati negli studi clinici internazionali, e stanno dimostrando una efficacia significativa. Quindi, mi scusi professor Corbetta, a chi lei suggerisce da esperto questo esame, la spirometria? In presenza dei sintomi che abbiamo descritto, fiato corto, difficoltà respiratorie, questa tosse che sembra quella del fumatore... Io direi che sopra i 50 anni, lei ha detto 60 perché in effetti aumenta la frequenza di questa malattia, che poi si aggiunge alle altre malattie croniche, sì. E è una dei cosiddetti six killers, no? dei nostri anni, no? Negli anni in cui abbiamo un invecchiamento della popolazione. Però lei porta giù l'età, mi sembra. Io porterei giù l'età, sì, anche perché sempre nell'ottica di una diagnosi precoce, cioè anche a 50 anni un soggetto a rischio che è in genere il fumatore, sì. Ma non solo il fumatore, se presenta questi sintomi è meglio una spirometria. Un esame non invasivo che permette di fare diagnosi rapidamente. Professor Corbetta, la ringrazio di essere grazie stato a voi con di noi. Aver parlato. Torneremo a trattare sicuramente questo tema. Buona giornata. Grazie. E noi torniamo con i nostri esperti, col professor Stocchi, con la dottoressa Bernardini. Arrivano tantissimi messaggi e molte telefonate. Inizio con una batteria di SMS che sono arrivati al 349-238-6666. Tirare su col naso è un tic, scrive Angela. Professor Stocchi. Non sempre, può essere anche una forma cosiddetta di manierismo, soprattutto se c'è un motivo. Quindi lì dove c'è un motivo, tipo per esempio lo spostarsi continuamente i capelli o tirarsi la barba, è più un manierismo con tic, cioè un modo di fare. Questo sparisce al momento in cui per esempio uno si taglia la barba o i capelli. Ho 32 anni, devo schiarirmi spesso la voce, può essere un tic vocale, scrive Alberto? Talvolta sì. Quindi quante volte dobbiamo schiarirci la voce perché ci venga il sospetto? Innanzitutto se c'è un buon motivo, se uno ha una faringite, certo. Un po' di tosse, è chiaro che si schiarisce la voce. Se lo fa senza nessun motivo e lo fa in maniera ripetuta e spesso magari può essere associato anche a qualche altro tic, questo può essere considerato un tic. Dottoressa Bernardini, una domanda per lei. Ho un figlio di 5 anni con un buon lessico. Quando però deve esprimere un concetto con entusiasmo, la prima parola la ripete diverse volte. Devo preoccuparmi? Bella domanda. Allora, se ripete l'intera parola, diciamo che non è un indice così grave di probabilità, cioè quindi un indice importante di balbuzie. Teniamo presente però che bisognerebbe fare una valutazione per capire meglio se vi sono altri tipi di disfluenze. In più teniamo presente che per quanto concerne la balbuzia, spesso il recuperare l'informazione e voler dire molte cose, dirle in fretta, dirle bene, quindi essere un po' agitati, no? Sotto pressione, può essere uno di quei fattori che porta i fattori predisponenti a venire più fuori. Quindi se uno è predisposto per balbettare, in situazioni emotivamente pregnanti le disfluenze possono venire più fuori. Preoccuparsi forse no, se c'è solo ripetizione di parola, se continuano e sono numericamente elevate magari fare una valutazione più approfondita, la consiglio sempre. Una domanda che mi sento di fare a entrambi i miei ospiti è questa: spesso la persona che balbetta fa degli strani movimenti che sembrano molto simili ai tic, magari strizza gli occhi quasi per aiutarsi a tirare fuori le parole. Come vanno inquadrate queste persone? Professor Stocchi, una risposta da parte sua e una dalla dottoressa Bernardini. Sono tic? Ma se questi tipi di movimento accompagnano il problema della balbuzie, direi di no, perché questo a volte può effettivamente sono degli atteggiamenti, delle manie che accompagnano lo sforzo di poter parlare bene, come quando noi ci concentriamo e facciamo alcuni tipi di movimento. Non dimentichiamo però che la balbuzie può comunque essere associata alla presenza di tic. Questo perché soprattutto il tic è un fenomeno piuttosto frequente, la balbuzia è 1,5% della popolazione, quindi le due cose possono anche stare insieme. Quindi è chiaro che lì, guardando bene il soggetto, si può differenziare tra quelli che sono dei semplici movimenti di accompagnamento a dei segni invece a dei sintomi ticcosi. Dottoressa Bernardini, guardi bene anche lei questo paziente. Sì, allora, io concordo pienamente con quanto ha detto poc'anzi il dottor Strocchi, solo una precisazione in più, effettivamente quelli che spesso vengono definiti tic nella balbuzie sono delle sincinesie, cioè dei comportamenti secondari che il soggetto mette in atto proprio come aiuti per parlare. Come distinguerli? Il tic è involontario e non compare nel momento in cui il soggetto per esempio inizia a balbettare, ripete una parola o una sillaba. La sincinesia invece ha un carattere di volontarietà, cioè il bambino o l'adulto la usa proprio come aiuto volontario per uscire dal momento d'impasse e spesso sono bucofacciali, quindi strizzano gli occhi, muovono la bocca o possono essere a volte anche vocali, come aggiungere delle parole o dei suoni prima di iniziare a parlare. Ma se lei lo chiede al paziente, il paziente le dice che lo fa proprio apposta come aiuto per levarsi da quel momento di difficoltà. Quindi sicuramente abbiamo una differenza fra tic e comportamenti secondari, in questo caso definiti sincinesie. Cercheremo di capire anche con l'aiuto dei nostri esperti come si affrontano questi disturbi, quali terapie sono a disposizione per i tic, in quale direzione si stanno muovendo gli esperti per la riabilitazione, la rieducazione dei soggetti affetti da balbuzie. Siamo tornati e andiamo a Brescia, ci aspetta Christian. Buongiorno Christian, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei portare una piccola esperienza e chiedere pure anche una domanda ai dottori lì presenti. Sì. Io da piccolo, per uno spavento, perché stavo annegando, avevo cominciato a balbettare. Poi il logopedista mi ha aiutato e ho superato questa problematica, anche se a scuola ne ho sofferto molto perché i bambini poi sono cattivi. Sì, è vero. Ecco, è un'età difficile, sì. È un'età difficile. Comunque sì, adesso mi capita ancora nei momenti di agitazione o comunque meteoropaticamente, diciamo, quando... il tempo. Però adesso capita che mio figlio, vedo che ha 4 anni, inizia anche lui a balbettare. Allora non era vero che era avuto lo spavento? Può essere ereditario? Grazie Christian, bellissima domanda che giro ai miei esperti. Dottoressa Bernardini. La domanda la sottolineo anch'io perché pone proprio l'accento sui fattori di rischio, quale ad esempio l'ereditarietà. Noi sappiamo che l'ereditarietà è un fattore estremamente importante e predittivo, quindi non possiamo definire la balbuzia semplicemente come una trasmissione ereditaria, tutto qua, poiché vi sono molti fattori che concorrono, ma sicuramente il 75% almeno dei bambini che balbetta ha dei parenti che a loro volta sono stati balbuzienti, quindi lo spavento può essere stato il fatto che scatenante. Ha portato fuori, scatenante, esatto, ma non la causa ultima della balbuzia. In questo caso è importante fare una valutazione se il bambino ha delle disfluenze e considerando i fattori di rischio, quale appunto essere nuovamente, sottolineo, maschio e avere se non altro un'ereditarietà su linea paterna. Ivano ci chiama dalla provincia di Cremona, vediamo se la sua domanda è per la dottoressa Bernardini o per il professor Stocchi. Ivano. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo portare la mia esperienza. Mio figlio Andrea ha 5 anni, circa 3 mesi fa ha incominciato ad avere un atteggiamento, non so in quale categoria attribuirlo, praticamente aveva un'espressione come quando uno mangia una fetta di limone e si induriva e muoveva le manine come per volare. Sì. Al che ci siamo preoccupati io e mia moglie perché era già qualche settimana che lo faceva e tutti ci dicevano mi raccomando non ditegli niente, così siamo andati dal pediatra, non gli dite niente, che passerà, a che dopo un paio di settimane ancora faceva sempre questo movimento. Io gli ho incominciato a dirgli Andrea ma come mai fai queste cose qua così, e parlando in poche parole Andrea ha smesso di, indagando anche perché lo faceva, ha smesso di farlo. Sì. La mia domanda era, bisogna necessariamente ogni volta andare da uno specialista o si possono risolvere oppure, i problemi, oppure si può aspettare? Grazie a Ivano, professor Stocchi. Ma indubbiamente quando questi fenomeni di natura ticcosa, ripeto, se, essendo molto frequenti nel bambino, compaiono, c'è sempre, è sempre un buon, una buona idea aspettare, vedere che cosa succede, perché naturalmente ci può essere anche una remissione spontanea. Come abbiamo anticipato, certo. Molto immediata. Quindi tutto sommato io direi di star tranquilli e di aspettare. Poi se il fenomeno permane per un periodo sufficientemente lungo, se i genitori sono particolarmente preoccupati, rivolgersi allo specialista. Professor Stocchi, io vorrei approfittare di lei per dare anche delle informazioni riguardo alla terapia per chi ha un tic e bambino non lo è più. Arrivano tantissimi messaggi, alcuni come ad esempio Ciro e Giovanni ci chiedono si può guarire in età adulta dai tic, che cosa si può fare? Parliamo di terapia. Rispondiamo con la statistica a questi signori, diciamo che come ho detto prima c'è una prima remissione spontanea di circa il 90% nell'età dello sviluppo. Dei ragazzi che continuano ad avere tic c'è ancora la possibilità di avere una remissione intorno ai 20 anni, sì. Dopodiché diventa molto improbabile, cioè, diciamo che se il tic permane dopo il 20° anno d'età è molto improbabile che questo tic scompaia. Sicuramente va a diminuire poi nell'età particolarmente adulta. Sì. Particolarmente adulta vuol dire con gli anni, verso la terza età, ecco, questo è un professor Stocchi, che cosa si può fare? Terapia, dunque la terapia farmacologica dà dei risultati a volte anche molto buoni, però i farmaci che utilizziamo oggi sono farmaci che innanzitutto non curano il problema, cioè curano il sintomo, questo significa che un paziente assume il farmaco, non ha il tic, ma al momento in cui sospende la cura è molto probabile che nel giro di qualche mese il tic torna fuori, quindi la cura è sintomatica. Alcuni dei farmaci, soprattutto i più efficaci, hanno degli effetti collaterali, quindi va ben valutato, certo, il rischio-beneficio, cioè se un paziente ha delle forme ticcose molto gravi è giusto utilizzarli, altrimenti aspettare. No. Questo vale anche per alcuni bambini in età scolare che hanno dei tic molto molto importanti che gli rendono la vita difficile, in quel caso, in alcuni casi particolari, si può anche aiutare con farmaci, magari scegliendo quelli che danno meno effetti collaterali in assoluto. Si tratta di casi molto selezionati, sì, che richiedono una valutazione molto attenta tra i rischi e i benefici. Certo. Dottoressa Bernardini, invece la balbuzie, lei ha sottolineato che è necessario intervenire rapidamente. Esatto. Ecco, questa è la prima cosa, ma io vorrei parlare un accenno ai bambini, sì, e poi anche agli adulti che si confrontano nonostante ancora con questo disturbo. Che cosa si può fare? Allora, brevemente sui bambini, sottolineo nuovamente l'importanza di intervenire precocemente perché la prognosi più favorevole sia in termini di brevità del trattamento, come tasso di successo, completezza del risultato, e quando vi sono dei dubbi o una prognosi diciamo che potrebbe essere sfavorevole, è fondamentale fare una valutazione in centri specializzati e poi vedere se intervenire o no. Sì. Come intervenire? Fondamentalmente sia per i bambini che per gli adulti potremmo semplificare il tutto dicendo che gli interventi sono mirati su due fronti: uno, aiutare questi soggetti che balbettano ad acquisire delle abilità, delle tecniche che gli permettano di avere un controllo volontario sulle proprie disfluenze, quindi ridurre le disfluenze o modificarle nel momento in cui insorgono. E l'altro aspetto altrettanto importante è lavorare affinché il soggetto che balbetta diventi un abile comunicatore, cioè non soffra del proprio disagio. Certo. Spesso questi soggetti, come lei sa, delegano per esempio i genitori, chiedi tu per me il gelato, la pizza, non affrontano le situazioni, a scuola non alzano la mano, ecco, aiutare dal punto di vista psicologico questi soggetti, sia adulti che bambini, proprio per ad evitare delle forme di evitamento. Non evitare le situazioni comunicative, sentirsi a proprio agio con le proprie abilità comunicative, cambia a seconda della gravità, a seconda dell'età, la tipologia dell'intervento, ma certo, le basi fondamentalmente restano sono su queste due parti. Io un minuto, inizio a salutare i miei ospiti così i convenevoli li saltiamo poi alla fine per dare la parola a Corrado che ci chiama da Vicenza, a cui vorrei fosse data una risposta. Corrado, buongiorno, rapidissimo. Buongiorno. Buongiorno, una domanda rapidissima. Mio nipote ha 9 anni, è un po' di tempo che lo sento balbettare, però quando legge pronuncia le parole in maniera proprio normalissima. Quindi chiara. Va spedito leggendo, mentre nel parlato ha qualche piccolo intoppo. Grazie Corrado. Dottoressa Bernardini, un'indicazione flash. Flash, allora, alcuni bambini balbettano di più leggendo, altri nella produzione spontanea, quindi è comunque un indice importante, un indice che va assolutamente approfondito. Allora, grazie alla dottoressa Bernardini. Grazie a voi. Grazie anche al professor Stocchi che ci ha accompagnato per tutta l'ora, auguro a loro buona giornata e naturalmente buona giornata a voi che ci avete ascoltato, ci avete seguito, siete intervenuti. Io vi do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.